Buongiorno Chiesa, vogliamo ringraziare questo gruppo Lode straordinario con questa canzone nuova, grazie, grazie ragazzi. Non ha a che fare con il numero della band, dei componenti, è vero eh? Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno Chiesa! Se sei un genitore, sei venuto stamattina appositamente perché c'è un lavoro preciso per i tuoi figli lì dietro, ma oggi c'è anche un lavoro specifico per te da questa parte. Ti piace? No. Fantastico. Oggi sapete dove volevo essere? Indovinate. Alle Maldive. In un'altra spiaggia. Da sola, certo ragazzi, Chiesa, non volevo essere qui, questo è poco mai sicuro, mamma mia Sara però ci tratti proprio male, non per voi, ma per me, l'ultima cosa che volevo fare questa mattina è venire su un palco e predicare. Queste settimane, è vero mio marito, abbiamo collezionato tra le peggiori settimane che i genitori possano vivere, anche a voi capita? Nella nostra famiglia abbiamo, diciamo, la lista delle 3 settimane peggiori. Questa le ha scalate tutte ed è arrivata in cima. Anche a voi capita di avere settimane? Sì, oh, grazie, grazie, grazie, che bello. E quindi l'ultima cosa che volevo è essere qui. E indovinate, oggi dobbiamo prendere ancora Efesini. E indovinate su quale parte lavoreremo oggi? Figli, ubbidite nel Signore e ai vostri genitori perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Quanti di voi conoscono un Dio che è anche umorista? Questa settimana e questo verso messi insieme mi dà tutta la gioia dell'avere un Dio che è un umorista. Che un papà che se la fa una risata con i suoi figli, dice, ma vabbè figlia mia, facciamoci una risata. E quindi confido nel fatto che sia veramente per prima io ad essere istruita da questa predicazione, con molta umiltà lo dico, e che il Signore si possa servire con umiltà di me per poter aggiungere qualcosa. Per cui andiamo, il titolo di oggi, sapete io amo i nostri pastori, li sto amando di più che ci danno questi, finito i fessini a me, basta, ora ci aspettiamo un'altra, però è stato straordinario studiare insieme a Fessini, vero? È di grande equipaggiamento, ci mancano due o tre, non mi ricordo più, con Natale ci siamo un po' incastrati, però ci manca un capitolo intero che è questo l'ultimo capitolo. Il titolo di oggi è genitori e figli. Vi piace? Quando ci approcciamo a Efesini 6, l'ho letto già, ve lo voglio rileggere. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. È qua che scattano, no? Le braccia. Ci sono i tuoi figli questa mattina vicino a te? No, ma sono certa che quando tornerai a casa gli manderai il link. Senti che ti fa bene. Vi assicuro che ci fa bene, ci fa male in entrambe le maniere, ok? Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, perché questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina del Signore. Quante volte avete letto questo verso della parola di Dio? Quante volte non l'avete capito? Perché ci sono tanti cavilli da comprare. Luigi se la ride. Luigi, perché non stai predicando tu? Il pastore, sono loro, è sempre colpa loro, è sempre colpa loro. No, ma noi li amiamo tanto, i nostri pastori. Va bene, perché Luigi, poi ho bisogno del tuo feedback su questo. Questo capitolo della Bibbia è fortemente connesso al capitolo 5. Ce lo ricordiamo com'era il capitolo 5? Il capitolo 5 comincia così. Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati. Che bello. Già qui cominciamo a comprendere che Paolo utilizza questo legame di figliolanza moltissimo nella lettera agli Efesini, come anche in tutte le altre lettere che lui ha scritto, per spiegare, per ribadire, per sottolineare il tipo di rapporto che proprio Dio usa per spiegare il suo amore tra padre e figlio. E Paolo lo usa anche in una genitorialità che ha un senso spirituale. Quando scriverà a Timoteo lo chiamerà figlio, ok? È per questo che nessuno di noi può sentirsi escluso da questa predica. Se questa predica io l'avessi ricevuta 2 anni e mezzo fa, non essendo ancora genitore, mi sarei sentita squalificata. Ma quello che ci insegna Paolo è che da questa parte della parola di Dio, tutta la parola di Dio è utile per istruire ognuno di noi sempre. Quello che ho compreso meglio oggi è che genitori non si è solo quando si hanno dei figli naturali, adottati, in affidamento. Noi siamo genitori perché prima di tutto siamo figli e Dio ci chiama ad essere degli esempi per gli altri. E quindi ognuno di noi è un genitore. Ci arriviamo. E camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Ragazzi, vi sto chiamando ragazzi anche se avete 80 anni, ma questa è la cornice dentro cui dobbiamo piazzare anche il verso dei figli e dei genitori. Quello che Paolo ha cominciato a dire nel capitolo 5 è: siate miei imitatori, no? Dio dice, siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Come? E camminate nell'amore, come anche Cristo ha dato se stesso per noi in sacrificio e offerta di odore soave. Vi ricordate poi come continua il capitolo 5? Spiega come mettere in pratica questo. Vi ricordate? Né impurità, né avarizia, e parla di tutta questa modalità, parla del come. A metà del capitolo 5 inizia a dire: abbiamo capito che cosa? Sì. Abbiamo capito come? Sì. A chi è rivolta questa parola? E comincia con la prima relazione che Dio mette in ordine gerarchico, e sono mogli e mariti. Quindi, io oggi ho poche ore di sonno, quindi venite con me, siate imitatori di Dio, giusto? Siete ancora con me? Come? In santità, abbiamo sentito parlare di questo. A chi è detto questo? A mogli e mariti. Sempre per spiegare lo stesso concetto. Qual era il concetto? Ce lo ricordiamo? Cristo e la Chiesa, l'amore di Dio, l'amore di Cristo per la Chiesa. Questo è il concetto. Ci ricordiamo la settimana scorsa, hai fatto così molte volte a tuo marito e tua moglie, se sentendo voi. Devo dire che ringrazio Dio che la settimana scorsa le prediche sono state molto equilibrate, anzi anche un po' più focalizzate sui mariti, devo dire, ma me ne sono uscita bene. Quindi diciamo così che anche oggi spero di uscirmene bene. Ma la seconda categoria a cui parla Paolo sono genitori e figli. La terza categoria di cui parlerà sono servi e padroni. Riassumiamo: siate imitatori di Dio come Cristo ha fatto, sacrificando se stesso, eccetera, come in santità, purezza, a chi? A tutti. Questo è un invito rivolto a chi? A mogli, a mariti, a madri, a padri, a figli, a servi e a padroni, praticamente a tutti. Non c'è nessuno che possa sentirsi escluso da questo invito. Tu non puoi dire, beh, oggi non è a me. No, noi dobbiamo assolutamente sentirci coinvolti in questo. Perché? Perché siamo tutti coinvolti nell'essere imitatori di Dio. Non c'è una categoria che deve farlo di più o in una maniera specifica, ma siamo tutti coinvolti in questo. E Dio proprio, Paolo qui usa, cioè Dio usa Paolo per parlare al cuore dei figli e dei genitori, ed in particolar modo una postilla specifica per i padri. Iniziamo dall'essere figli, così ci rilassiamo, eh? Tutti siamo figli. Tu sei figlio, giusto? Che tu abbia ancora i tuoi genitori in vita o non ce li abbia in vita, ma tu sei figlio, sei nato da qualcuno, sei stato generato fisicamente da qualcuno. Ma prima di essere stato generato fisicamente da qualcuno, prima che le tue primissime cellule si unissero, chi ti ha disegnato, chi ti ha desiderato, chi ha previsto la tua vita? Questo è il tuo Dio. Il nostro Dio ci ha desiderati, ci ha chiamati, ci ha formati, ha previsto, ha disegnato la tua vita prima che tuo padre e tua madre si unissero nel concepimento. Tu eri già nel suo cuore. Prima di essere figlio dei tuoi genitori, tu sei figlio dell'Onnipotente. Questa è una rivelazione che mi ha liberata, che mi ha guarita quando ho conosciuto Gesù. Quando ho conosciuto Gesù sono arrivata a Lui pensando di non essere desiderata, di essere nata per errore, bla bla bla. Quando Gesù è arrivato con il suo amore, io ho capito che al di là di come sono andate veramente le cose, Gesù mi ha desiderato per primo. Io sono nata nel suo cuore. È Lui che mi chiama figlia per primo. Noi siamo figli ed è uno status di appartenenza. Tu non puoi fare niente per scegliere i tuoi genitori, è vero? Quanti di noi hanno pensato nella propria vita, ma volevo nascere in un'altra famiglia? Tutti abbiamo pensato, mamma, papà, ti chiedo perdono. Essere figli è uno status di appartenenza. Non fai niente per meritartelo. Non fai niente per meritartelo, non puoi desiderare o farti nascere dal grembo di un'altra madre o dal seme di un altro padre. Tu nasci e così appartieni. Sapete che questa settimana ufficialmente i nostri figli sono figli ufficiali, cittadini italiani, con la carta d'identità con dietro scritto figlio di Vito Marinelli e Sara De Filippo, non Sara, Serafina De Filippo. Questa è stata la settimana, finalmente, in cui abbiamo partorito nuovamente i nostri figli. Sapete che i nostri figli hanno ricevuto con noi il nostro cognome, hanno ricevuto con noi la nostra cittadinanza. Davide e Abram sono oggi cittadini italiani, non sono nati, bla bla bla. Perché? Perché in Italia vige lo ius sanguinis. Tu non ricevi la cittadinanza perché nasci sul suolo italiano, ma perché appartieni ad un italiano. Quindi Davide e Abram hanno ricevuto uno status che non si sono meritati, ma lo hanno ricevuto perché figli di sangue, la legge li ha chiamati così. Che è straordinario questo. Questo è quello che accade, come ci ha spiegato una volta mio marito, anche in Cristo. Quando noi siamo adottati da Lui, nelle nostre vene scorre lo stesso sangue di Gesù. E per questo noi diventiamo figli e cittadini del Regno. Noi non facciamo niente, lo riceviamo. Essere figli è uno status di appartenenza. Dio non ci chiama solo servi, discepoli, amici, ma ci chiama soprattutto figli. Ci rendiamo conto di quanto questa rivelazione sia esplosiva, sia grandiosa? Cioè, Dio ha voluto spiegare il suo amore per noi, lo poteva fare in 10 milioni di modi, ma lo ha fatto in due maniere. Moglie e marito, Cristo e la sposa, padre e figli, no, genitori e figli, padre con noi. Perché? Perché è il nostro modo di comprendere chiaramente l'amore. Tu sei figlio. Lo puoi dire alla persona vicino a te. Tu sei figlio. Non te lo dimenticare. Tu sei figlio. Tu sei figlio voluto e desiderato da Dio. Amen. Ogni sera, prima di andare a dormire, io dico questa frase ai miei figli, entrambi, che la giornata sia andata bene o che sia andata malissimo, e gli dico, figlio mio, io ti amo, tu sei il figlio che ho sempre desiderato. Questo lo dico ogni sera. E sapete perché l'ho cominciata a dire? L'ho detta dalla prima notte in cui Davide e Abraham hanno dormito a casa nostra. Perché mentre li stavamo ricevendo, mio marito aveva comprato il lettino dei bambini che abbiamo comprato. Oggi vi parlerò un po' del nostro processo anche genitoriale. E sapete che quando sono arrivati Davide e Abram, eravamo nel pieno della pandemia, i negozi erano vuoti, e il nostro lettino, il lettino di Davide e Abram, mio marito l'ha comprato su Amazon. Quindi era l'unico che aveva un lettino e mio marito si è messo lì a montarlo. Abbiamo montato questi lettini e dovevamo aspettare, no? La conoscenza. E c'era questa stanza vuota e questo lettino. Allora la mattina presto mi svegliavo e il Signore proprio mi ha dato questa rivelazione: fai come Anna con Samuele. Vi ricordate la storia di Anna, che era sterile, che chiede a Dio un figlio, e gli disse che Dio gliel'avrebbe concesso, e Anna andava perennemente al tempio a pregare, e ad un certo punto la sua preghiera qual è stata? È stata: Dio, concedimi un figlio e sarà tuo. Sarà un tuo figlio. E allora entravo nella cameretta dei bambini e pregavo questo, mettevo le mani sul materasso e dicevo: qui si siederà mio figlio e questo figlio sarà un tuo ministro, un tuo discepolo. E facevo la stessa cosa con il materasso di sotto. E Dio mi ha dato questo: di ai tuoi figli ogni giorno che sono amati, che sono desiderati e che sono figli. E questo non solamente per me, perché abbiano una rivelazione di quello che è l'amore di Dio. Io sono solamente un tramite per ricordargli quello che Dio dice di loro. E voglio essere un tramite. Infatti, ognuno di noi è figlio. Ognuno di noi ha dei genitori. Oltre che essere figli del nostro Padre Celeste, siamo figli dei nostri genitori naturali. E non è sempre facile essere figli, vero? Io penso che non sia stato facile essere mia madre e mio padre. Non lo è ancora, forse. Però sicuro non l'è stato tanto. Oggi vedo i miei genitori ancora essere figli, perché ancora si prendono cura dei miei nonni che sono in vita, e pur essendo anziani, in tutta la loro vita non ho mai visto i miei genitori disonorare i miei nonni. Ho visto i miei genitori essere degli ottimi figli. E sapete questo che cosa fa? Mi aiuta ad essere una buona madre. Perché ho degli esempi davanti. Essere figli è un lavoro. Essere figli è un impegno. La parola di Dio ce lo mostra come un impegno ingombrante. Ubbidite ai vostri genitori. Onora tuo padre e tua madre, perché questo è l'elisir della giovinezza. Questo ti fa vivere a lungo. Le relazioni con i nostri genitori, ovviamente, creano un imprinting in noi. Le teorie dell'attaccamento ce l'hanno detto nell'educazione, cioè come i nostri genitori si approcciano con noi, come noi ci approcciamo con i nostri genitori. Questa relazione particolare scrive la strada per ogni altra relazione. E allora, se abbiamo avuto una buona relazione con i nostri genitori, forse diventiamo sicuri nelle relazioni con gli altri. Se non abbiamo avuto una buona relazione con i nostri genitori, può essere che le nostre relazioni non vadano bene. È per questo che il nostro Dio ha la possibilità di riscattare anche questo in noi. Forse sei ancora qui a lavorare su di te, e allora lì percorsi di aiuto, di counseling, psicoterapia, ritiri, per perdonare, per lasciare. In questo, veramente, il nostro Padre Celeste ha la possibilità di riscrivere una storia per noi. Se Dio mette mani a questo imprinting, noi diventiamo mogli, mariti, genitori, figli migliori. E la cosa particolare è che Dio dice, Paolo ci dice in Efesini: ubbidite ai vostri genitori nel Signore. Cosa significa nel Signore? Molto spesso questo nel Signore viene frainteso, no? Io lavoravo con i ragazzi, lo sapete, e mi dicevano spesso: ma quindi io devo obbedire solamente se i miei genitori sono credenti? Ti piacerebbe? Figli, ubbidite ai vostri genitori, tra parentesi, solo se sono bravi, se sono credenti, se... No, ma Dio ci dà anche una strategia, nel Signore. Cosa vuol dire nel Signore? In Lui, in Cristo, attraverso il suo perdono, attraverso la sua grazia, attraverso la sua speranza, attraverso la sua rivelazione in noi, noi possiamo ubbidire. E l'ubbidienza, come ricordiamo ai nostri figli, è una scelta. L'ubbidienza è una scelta di fiducia. Se ti fidi di qualcuno, tu ubbidirai a qualcuno. E i nostri genitori forse non hanno guadagnato la nostra fiducia. Forse hai avuto dei genitori abusanti. Forse hai avuto dei genitori che ti hanno abbandonato, forse hai avuto dei genitori che ti hanno ferito, dei genitori che non hanno fatto i genitori. Ubbidite ai vostri genitori, nel Signore. Sara, quale possibilità ho io La tua possibilità, ricordati, è l'essere figlio. Essere figlio prima di tutto di Dio e attingere da Dio la forza per essere anche un figlio naturale. Sai perché? Perché ci fa bene. Il perdono ci fa bene. La guarigione ci fa bene. L'ubbidienza ci fa bene. La Bibbia dice: onora tuo padre e tua madre. In più versi, vediamoli un po'. Colossesi, Paolo lo dice in un'altra maniera. Colossesi e dice, aspetta che me lo sono perso negli appunti, c'è già sullo schermo, credo. Colossesi 3:20, figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa. Eh? Non è che, diciamo, lascia molto dubbio, perché questo è gradito al Signore, cioè questo piace a Dio, punto. Proverbi, sì, i proverbi sono pieni di insegnamenti sull'obbedienza e sulla genitorialità. Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Deuteronomio, ricordiamoci, qua parliamo della legge. Cioè non è una rivelazione neotestamentaria. Sin dall'inizio, quando Dio ha regolato la vita del suo popolo, ha messo in ordine le relazioni. Ha creato tutto in ordine, ha detto onora tuo padre e tua madre come il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato affinché i tuoi giorni siano prolungati, affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore ti dà, che il tuo Dio ti dà. Praticamente l'obbedienza ti fa bene, onorare tuo padre e tua madre ti fa bene, onorare tuo padre e tua madre ti fa bene. Io mi aspetto che i miei figli mi ubbidiscano e mi onorino, perché vedono da me, devono vedere da me, che io onoro i miei genitori. Molto spesso diciamo, avete mai visto papà e mamma dire ai nonni, sei stupido, o non mi piace quello che mi hai detto, e cerchiamo di portare degli esempi pratici, anche raccontando la nostra vita. Perché? Perché noi, e spesso diciamo ai nostri figli, sapete perché siamo felici? Perché noi ubbidiamo ai nostri genitori. Sapete perché vivremo a lungo? Perché abbiamo scelto di onorare la nonna e il nonno. È un principio biblico. Ti piace questo? Ti piace se sei genitore, no? Si può essere figli ubbidienti in santità? Si può. Amen? Voglio fermarci subito per pregare per questo. Forse preparandomi ho avuto più peso per noi come figli, perché forse il nostro essere figli ci ha creato molti problemi. Vogliamo pregare un attimo? Vi posso chiedere di alzarvi in piedi? E forse mentre parlavo proprio dei genitori, del perdono, della santità, dell'ubbidire in Cristo, ti sono venuti un po' di non mi piace questo messaggio. Lo so, non piace neanche a me, però ci fa bene. Vogliamo pregare un attimo. E se sai che devi perdonare, se devi fare meglio come figlio, se devi ubbidire, se devi chiedere perdono, se devi chiedere a Dio di cancellare ogni imprinting fatto nella tua vita da figlio, allora chiedilo ora, di eliminare ogni scoria. Forse hai lavorato su di te un sacco, però ancora ci sono delle pietruzze che ti danno fastidio, che non ti portano a vedere tuo padre e tua madre come dovresti vederlo, ad essere lì a tavola e ad avere sempre il piede che si muove, perché non ce la fai, o perché chiediamo ora veramente al Signore di darci guida, di segnare una via per noi in Lui, sì? Vogliamo pregare insieme? Puoi mettere un braccio sulla persona vicino, perché viviamolo come Chiesa, Gesù. Io ti ringrazio proprio per come tu hai dato i nostri genitori come dei doni, come dei regali. Ti ringrazio, Signore, per i miei genitori. Ti ringrazio per l'esempio che sono. Ti ringrazio per le forze che hanno. Ti ringrazio per come tu li benedici. Ti ringrazio perché tu li hai conosciuti e loro ti hanno conosciuto come padre. Gesù, grazie per la guarigione che hai dato alla nostra famiglia. Grazie, Signore, perché hai usato la conversione dei miei genitori per cambiare un'intera storia. Gesù, io prego questo, se siamo qui solamente come figli, io prego che tu possa cambiare la storia della nostra famiglia tramite noi. Tu, Signore, non sei limitato. Tu, Signore, sei un Dio potente. Prego che se c'è solamente un membro della famiglia che ti conosce, che l'intera storia di quella famiglia possa prendere piede diversamente. Gesù, vieni con la grazia, vieni con il perdono, vieni con la tua rivelazione, Signore, dacci perdono, metti perdono per ogni cosa vissuta, metti perdono per ogni abuso, metti perdono per ogni incuria, metti perdono, Signore, per ogni violenza, metti perdono, Signore, su ogni ipocrisia che forse abbiamo registrato. Ti prego, Signore Gesù, spazza il terreno intorno a te affinché tutte queste cose non possano distorcere l'immagine tua di Padre Celeste. Signore, rivelati al nostro cuore come Padre e rivelaci sempre di più come essere figli obbedienti a te e ai nostri genitori carnali. Nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti, prendi un impegno con me. Se sono vivi i tuoi genitori, se sono morti ovviamente no, ma puoi ringraziare qualcun altro. Prendi un impegno con me ora. Ringrazia i tuoi genitori. Mandagli un messaggio, fagli una telefonata, fai un gesto. Forse li devi solo ringraziare perché sono venuti a prenderti ogni giorno da scuola per tutti i giorni della tua scuola o perché hanno pagato tutto quello che hai o perché hanno lavorato tanto per darti il meglio. Lo vuoi prendere come un impegno? Chi vuole prendere come un impegno? Vorrei vedere tutte le mani alzate. Questo è un impegno di onorare. Amen? Accomodiamoci perché ora viene la parte da ridere. Siamo svegli? Ho già finito il tempo. Questo orologio è da parte di Satana. Nel nome di Gesù esploderà. Pastore, mi servono un paio di ore ancora, va bene? Posso andare avanti sull'essere genitori? Ora, sull'essere genitori io vorrei parlare circa 2 ore e mezzo, però cercherò di farlo, ma chi è che deve venire? Christian, non alzarti dalla sedia, ok? Fino a quando... Essere figli è difficile. Essere genitori... No, non lo posso più dire, perché vi voglio consigliare 2 libri, non li ho scritti io, quindi non è che ci guadagno, però li ho letti e mi hanno fatto molto bene. Genitori non è un mestiere difficile, di Antonio Amico, è un libro straordinario. Quindi da quando ho letto questo libro non posso più dire mamma mia essere genitore. No, non posso, perché è un onore. È un libro straordinario, l'ha scritto il pastore Fabio, lo conosciamo, Fabio Notarnicola, è questo, Essere genitori. Il terzo ve lo pubblicizzo tra un po'. Essere genitori, non posso dire difficile, non voglio scoraggiare chi di noi deve ancora esserlo, è dura. Il mio parrucchiere mi ha visto qualche tempo fa e mi ha detto Sara, ti sono venuti 5 capelli bianchi. Ho detto, saranno i 40 anni fa. No, è da quando sei mamma. Oh, guarda. Grazie per avermi ricordato quanto è facile essere genitore. Noi siamo io e mio marito siamo diventati genitori, come sapete, in una maniera veloce, straordinaria, e questa maniera ci ha offerto l'opportunità di comprendere la genitorialità in modo un po' più specifico, se posso permettermi di dirlo. Vi faccio vedere un po' di foto, le foto del concepimento, tutto a posto, si possono vedere? No, prima. Grazie. Questa è la foto del concepimento di Davide Abram. No, non sto dicendo niente di scabroso, ok? Qui è successo che siamo andati al ristorante giapponese, perché io penso che siano benedetti da parte dello Spirito Santo per fare delle decisioni, pastore, no? Giorgio, va bene? Qui eravamo andati al ristorante giapponese. 2 giorni dopo, no, vi spiego un attimo prima. Noi siamo entrati nel percorso genitoriale adottivo un po' per caso e quindi abbiamo consegnato i documenti, era giugno 2019 abbiamo consegnato tutti i documenti e a settembre il tribunale ci ha contattato per fare un primo incontro di gruppo, poi ad ottobre il secondo incontro di gruppo e poi da quell'incontro di gruppo ti prepara il tribunale con l'equipe, gli psicologi, assistenti sociali, psichiatri, giudici eccetera, da quell'incontro, cosa? Come X Factor, più o meno. più o meno. E noi abbiamo l'X Factor, quindi. E lì ci dicono, se tutto quanto va bene, se i documenti sono a posto, se l'equipe vi ritiene che siete pronti, vi contatteranno a breve. E quindi noi, ci contattano, non ci contattano, e invece ci hanno contattati. Ci hanno contattati a dicembre. Il 18 dicembre 2019 abbiamo questo incontro. Il terzo incontro si aveva solo noi due, quindi non tutte le coppie che si stavano preparando, ma noi due, con tre psicologi davanti e tre psicologi dietro, lì a registrare ogni nostra azione. Questo è l'appuntamento. No, Sara, oh, aspetta, tanto abbiamo tempo, posso stare qui fino a stasera. Quindi questo è l'appuntamento in cui, davanti al giapponese, ci siamo detti, ma noi che cosa dobbiamo dire a questi giudici? Che cosa vogliamo veramente? Cosa siamo disposti a? E sapete, si compilano dei documenti, la nostra richiesta, come il 100% delle coppie che fa un percorso adottivo, è di richiedere, di dare la disponibilità per un bambino in genere 0-3 anni. E lì eravamo col giapponese, dal giapponese, e entrambi abbiamo ricevuto questo. Perché solamente uno? Siamo pronti per più di uno. E ho detto, io vorrei tre figli. Infatti mio marito continua a dire, fino a tre, quando va tutto bene a casa, fino a te, tu ne volevi tre, già due. E quindi lì dico, secondo me, fino a tre. Questo è stato proprio il mio cuore che si è allargato. E Vito dice, Sara, io invece non mi sento pronto per un bambino piccolo. Io mi sentirei più pronto per un bambino più adulto, per dei bambini più grandi. E allora lì abbiamo detto, ok, Signore, cosa vuoi da noi? E abbiamo messo un criterio, età scolare fino a tre bambini. Questo è il giorno del concepimento. Due giorni dopo, Sara, ora puoi mettere quello. Due giorni dopo eravamo dal giudici. Questa è la faccia prima di entrare, tutti belli fiduciosi, no, siamo carichi, alla grande, andrà benissimo. Io dico a mio marito, Vito, mi raccomando, a quale personalità indosserai? Mi raccomando, non fare gaffe, niente ironia, niente cinismo, qua ci controllano, mi raccomando. Ovviamente non ha ascoltato nessuno dei miei suggerimenti. E lì loro ci incontrano e un assistente sociale prima ci dice, se vi fanno una proposta, attenti, perché vi stanno proponendo qualcosa, vuol dire che vi ritengono veramente adatti, e quella proposta non sarà vera, ma sarà simile. E allora i giudici ci dicono, allora tutto a posto, i documenti vanno, sì, allora voi avete richiesto solo un bambino di età 0-3, e noi diciamo, no, per piacere, dobbiamo modificare questa richiesta, noi siamo disposti ad avere fino a tre figli e, di massimo età scolare. E loro si guardano e non dicono niente. Io dico, ma no, abbiamo fatto già qualche errore. Così dicono, allora, questa è la proposta che noi abbiamo da farvi. Voi accettereste due bambini di origine africana, uno di 4 anni e uno di 6 anni? E noi ci guardiamo e in 0,2 secondi diciamo, assolutamente sì, era proprio questo che volevamo. Ah, ok. Io dico, amore, ci hanno esclusi. Cioè, allora, loro dicono, va bene, ci risentiremo della serie grazie, un'altra volta. Quindi scendiamo da questo appuntamento e io dico, mamma mia, abbiamo proprio sbagliato, cioè, sembriamo proprio dei peccati, cioè, della serie, siamo pronti a tutto, mo penseranno che noi siamo di quelle coppie che proprio stanno aspettando per essere felici dei figli, invece noi siamo felici comunque, se tutti questi problemi. E Vito mi dice, Sara, invece secondo me questi due bambini sono i nostri figli. Io dico, no, ci hanno solamente strecciato, hanno provato, hanno visto se. Poi pandemia, febbraio pandemia. Dopodiché a maggio riaprono i tribunali, fine maggio riaprono i tribunali, inizio giugno ci arriva la chiamata dal tribunale e dice venite perché c'è una proposta per voi, neanche 9 mesi, abbiamo avuto una gravidanza di 9 mesi. Questa è l'ecografia, no, l'altra, ancora, ce n'è ancora un'altra, ancora, ce n'è ancora un'altra, no. No, niente. Andiamo all'appuntamento a maggio. No, è questa qui dopo? Quella l'altra? L'altra? Questa. Andiamo all'appuntamento e la proposta per noi è stata: abbiamo per voi una sola proposta. Si chiamano David e Abram, hanno 6 e 4 anni, mi emoziono ancora, ci raccontano la loro vita e noi eravamo lì in silenzio, immaginateci 8 giudici e mio marito dice: posso farvi una domanda? E indovinate qual è stata? Ha detto: ma questi sono i bambini che ci avete proposto a dicembre? E i giudici dicono: esattamente, questi sono i bambini che vi abbiamo proposto a dicembre. E ci dicono: ora avete 10 giorni per pensarci. E io dico, ci guardiamo e diciamo: non ci servono 10 giorni, ci servono 10 minuti. Siamo usciti, abbiamo cominciato a piangere e lì abbiamo quasi partorito. Era il 9° mese, era l'ultima gravidanza. Siamo rientrati e mio marito ha detto queste parole: Dio ha stabilito questi figli per noi e noi per loro. Quindi la nostra risposta è sì. Questa frase è stata messa sui documenti dell'adozione. Perché così? Dio aveva stabilito noi per loro e loro per noi. Dopo, la mia domanda è stata: posso comprare la cameretta? E loro dicono: no, dovete aspettare. Quindi siamo usciti da lì e ci hanno detto: ci rivediamo tra 10 giorni. Così è stato. Quando siamo usciti da lì, dopo 10 giorni ci hanno detto: potete cominciare a conoscere i bambini. Indovinate cosa abbiamo fatto noi? Foto dopo? Siamo andati all'IKEA a svaligiare l'IKEA con tutto quello che potevamo comprare. Abbiamo comprato 50 peluche, colori, non sapevamo niente, e lenzuola, lampade, cuscini. Abbiamo speso una cifra, abbiamo cominciato a preparare tutto. E poi è arrivato il giorno. 20 luglio 2020, abbiamo conosciuto i nostri figli e c'è stato il parto. Questa è la nostra prima foto insieme, li avevamo conosciuti da circa 1 ora e mezza. Siamo diventati genitori in una maniera strana, non tutti i percorsi sono così. Però dal primo momento, che cosa voglio dire questo? Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire questo ad ogni genitore. Essendo diventati così genitori, per noi è stato molto buono prepararci prima. Abbiamo avuto il tempo per leggere, per studiare. Abbiamo chiesto a 3 coppie che abbiamo individuato come essere ottimi genitori di chiedergli tutte le cose. E vi voglio dire i nomi. Noi abbiamo scelto 3 coppie, Millie e Louise. Li vedete i loro figli? Quindi abbiamo chiesto a Millie e Louise, per piacere, siate dei custodi sul nostro percorso. Abbiamo chiesto a Gianluca e Carli, vedete i loro figli? Abbiamo chiesto a Enzo e Saverio, li vedete i loro figli? Abbiamo chiesto: per piacere, possiamo venire da voi a farvi tutte le domande scomode? E così continuiamo a fare. L'essere diventati in questa maniera genitori ci ha dato una prospettiva specifica, una visione spirituale. Essere genitori, lo dico meglio, se dobbiamo prendere l'esempio della parola di Dio per essere genitori, sapete, non tutte le storie dei genitori che leggiamo nella parola di Dio sono andate bene. Non tutti gli uomini di Dio si sono comportati come ottimi genitori. Vi faccio 3 esempi. Eli, un sacerdote, Davide, ha fatto uno schifo come padre, Ezechia, peggio che andare di notte. Però ho detto, andiamo a vedere da chi Dio ha scelto per essere genitore di suo figlio che veniva sulla terra, e andiamo a vedere da Giuseppe e Maria cosa possiamo fare. Loro sono un esempio di genitorialità. Giuseppe è il primo genitore adottivo della storia. Indovinate un po', loro sono diventati genitori con una visione spirituale. Non diventavano una coppia di sposini e basta. Loro erano stati scelti per crescere il figlio di Dio. Questo ci deve dare una prospettiva. Ora, Matteo 1. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe. Ascolta bene, sottolinea la parola Giuseppe, perché Efesini parla dei padri. Ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era un uomo giusto, ascolta, e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, Non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo, una visione spirituale. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù. Tu, Giuseppe, ha posto il nome al figlio. Perché egli salverà il popolo dai loro peccati. Ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà il figlio. Andiamo veloce. E Giuseppe, svegliatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e fece quello che Dio gli aveva detto. Cosa fece? Prese con sé sua moglie, non la conobbe finché ella non ebbe partorito suo figlio e gli pose il nome di Gesù. Giuseppe ha abbracciato la visione spirituale di Dio di quel figlio. Questo è un esempio per noi genitori. Noi genitori non siamo genitori perché siamo stati bene a letto. Noi non siamo genitori per caso. Tu sei genitore perché devi crescere spiritualmente tuo figlio. Questa è la parte principale. Quando abbracci questa visione, quando guardi tuo figlio con degli occhi spirituali, quello che succede a me è che non mi importa che hanno le scarpe sporche, che non gli posso offrire una casa di proprietà o che devo lavorare di più perché gli devo comprare il cellulare nuovo, fare la vacanza più grande. Quello che è più importante per i miei figli è che loro abbiano una madre ed un padre spirituale, che abbiano una visione spirituale per loro, non una visione di eredità, non una visione. E allora qui io voglio dire un paio di cose. Per questo stiamo insieme fino a stasera, che importa. Tu, chi sta crescendo i tuoi figli? Te lo posso chiedere. Chi sta crescendo i tuoi figli? La TV? La nonna? La zia? La babysitter? La ludoteca? Perché? Sento perennemente i genitori dire: ma io faccio i sacrifici per crescerli bene. I tuoi figli non si ricorderanno i tuoi sacrifici lavorativi per dargli una casa quando tu muori. I tuoi figli si ricorderanno che non sei stato con lui per tutta l'infanzia, che non hai avuto la forza o il tempo per pregare con loro, che non sei venuto in chiesa perché sei stanco da tutto il lavoro che hai fatto, che ti sei rilassato e perché la sera hai lavorato tanto e vuoi stare davanti alla TV piuttosto che leggere una storia della Bibbia con loro. Quando abbracci una visione spirituale per i tuoi figli, allora capisci che comprargli il giubbotto più costoso per fare il figo con gli altri suoi amici non è sano. È sano stare con loro, è sano essere servi loro, è sano farli crescere. Ti piace? Secondo esempio che prendiamo da Giuseppe e Maria, anzi da Giuseppe, è proteggere i nostri figli. Vi ricordate quando Erode minaccia di uccidere tutti i bambini maschi al di sotto di 2 anni? Sapete cosa fa Giuseppe? Lo sappiamo bene in Matteo 2. Prende sua moglie, suo figlio, lascia tutto quello che ha costruito e va a vivere in un'altra nazione. Va in Egitto, è pronto a sacrificare tutto per proteggere suo figlio e sua moglie. Il ruolo di noi genitori è proteggere i nostri figli. No, non sto dicendo con l'ansia. No, qual è l'ansia? No, c'è Inchiostro di Puglia che dice: abbottonati la gola che fa freddo. Questa è l'ansia. Oh, mo devi cadere, attento che devi cadere. No, questa... Vabbè, stai con me, dai, stai con me, ok. Questa è l'educazione ansiosa, non è la protezione. Chiesa, non confondiamo la protezione con l'ansia. Proteggere i nostri figli e fare in modo che crescano in un ambiente sicuro. Ovviamente l'ambiente sicuro per un bambino di 2 anni è chiudere le spine elettriche, e un bambino non deve andare a mettere le dita nelle spine elettriche. Un bambino di 5 anni deve essere protetto quando va in bici, quando va, non so, sul monopattino, sullo skate. Noi abbiamo comprato di tutto, un'imbracatura al nostro figlio, il cappello, il casco, le ginocchiere, tutto. Un figlio di 9 anni deve cadere, deve farsi male e deve imparare a non cadere più. Erickson, che è uno studioso delle teorie dello sviluppo, ci insegna che ogni bambino ha necessità in ogni fase di essere protetto in una certa maniera. Un trentenne, mamma, non lo devi proteggere della serie abbottonati la gola. Lo stai trattando come un cinquenne. Mamme di trentenni ridono, le mogli ridono di meno dei trentenni a cui le madri dicono abbottonati la gola, però questo è un altro discorso. Noi siamo chiamati a proteggere i nostri figli. Da cosa? Dagli schermi. Dagli schermi. Noi stiamo combattendo una battaglia terribile, siamo dei genitori terribili, abbiamo filtri dappertutto, codici dappertutto, i nostri figli non possono vedere niente, abbiamo la TV, un altro po' la dobbiamo buttare questa TV perché non possono toccare il cellulare, non possono toccare la, quando vedono i nonni, oh il cellulare, finalmente, giocano sul cellulare di zia Luciana, non sul nostro. Noi vogliamo proteggere i nostri figli, dagli schermi, l'abbiamo sentito nella conferenza, dalle relazioni. Attenti, come sempre, con chi stanno crescendo i tuoi figli? Attento, dagli abusi. Sapete che noi diventiamo anche pedanti con i nostri figli nel dire attento a chi vuole mettere le mani alle tue parti intime, attento a chi deve venire con te nel bagno. Non esporti nelle parti intime dagli altri. Io sono una psicologa, ascolto gli abusi sessuali perennemente dai miei clienti. Io devo proteggere i miei figli. Io li devo proteggere. Io li devo proteggere. Proteggere è creare un ambiente sicuro intorno a loro. Sicuro in termini emotivi, in termini relazionali, la predica della settimana scorsa, in termini di amore, in termini di accoglienza, in termini spirituali. Ma Paolo ci dice in Efesini, figli ubbidite ai vostri genitori, questa è una cosa buona, onora tuo padre e tua madre, e quindi onora tuo padre e tua madre, perché il padre e la madre sono coinvolti nell'educazione. Chiesa, la Bibbia ci insegna a fare squadra, ad essere una squadra, non c'è una delega verso i padri e non c'è una delega verso le madri. Io ascolto perennemente famiglie in cui il padre lavora e la mamma si occupa dei figli. Questo non è l'ordine che ha stabilito Dio. Non è un ordine questo. Questo è l'ordine che ci siamo imposti noi o che ci ha imposto la cultura. Ma l'ordine della Bibbia è, se Paolo dice onora tuo padre e tua madre, è perché entrambi sono coinvolti nell'essere genitori e nell'educare i propri figli. Madre, devi educare tuo figlio. Non da sola. Padre, devi educare tuo figlio, non puoi delegarlo. L'educazione a chi è richiesta? Diciamolo insieme, al padre, nonni, zii, ludoteca, babysitter, TV. No. Apro una parentesi e la chiudo subito. Non deleghiamo l'educazione dei nostri figli alle figure di supporto. Posso dire anche una cosa in più, io sono benedetta che la mia famiglia viene in chiesa. I miei figli sono ora, stanno vivendo una cosa molto simile, se non migliore, alla nostra. Ma il mio ruolo non è delegare a Luigi, Regina, allo staff della chiesa, l'educazione spirituale dei miei figli. Le strutture intorno collaborano, aiutano, no? Rinforzano, ma non sono la parte principale. Giusto, Luigi? Diciamo grazie. I nonni, gli zii, aiutate il ruolo dei genitori. Chiedete ai genitori, posso dare una caramella? Posso far vedere questa cosa? Posso dare il cellulare? Posso fare questo regalo? Posso dire in questo modo? Non entriamo in competizione. Non ci alziamo ad educare in una maniera differente. Primariamente, ovviamente, questo deve avvenire nella prima squadra, moglie e marito. Noi siamo squadra, i nostri figli lo sanno, se papà dice no, indovinate cosa dice mamma? Ci provano perennemente, noi viviamo su due piani, allora i nostri figli, uno va sopra e dice mamma posso vedere i cartoni animati? No, poi arriva papà e qualche volta dice di sì, ma non si sono parlati, allora ci imbrogliano, no, perché poi ovviamente non stanno obbedendo. Moglie e marito, madre e padre devono essere uno. E non devono fare squadra davanti ai loro figli, devono fare anche squadra davanti ai loro figli, ma devono fare squadra dietro ai loro figli. Parlate, non abbiate la difficoltà di dire ai vostri figli, dobbiamo decidere un attimo, aspetta un secondo, papà e mamma parlano, posso venire con voi? No, papà e mamma parlano e poi ti comunichiamo la nostra scelta. Papà e mamma, papà e mamma, papà e mamma. Sapete cosa facciamo così? Li facciamo crescere come futuri mariti e mogli migliori. Quando facciamo così con David e Abram, noi stiamo creando in loro un seme perché loro siano degli ottimi genitori. Io non faccio squadra con mio figlio. Genitori, non fate squadra con i vostri figli. Mamme, non fate squadra con i vostri figli, lasciando fuori vostro marito. Noi siamo chiamati a fare squadra, noi mogli, con i nostri mariti e far vincere la squadra facendo vincere i nostri figli. Che brutte cose che sto dicendo, vero? Sono fuori da tipo 2 ore, vabbè. Essere genitori significa proprio farlo insieme, educare insieme, fare fronte unico. Però Paolo, e concludo con questo, però Paolo parla specificatamente del ruolo dei padri. E mi sembra di aver capito la settimana scorsa che Paolo ha sottolineato il ruolo dei mariti. È proprio in questo che vediamo una continuità. Il tutto di Efesini 5, mariti, mogli, eccetera, qual era? Parlava di influenza, parlava di leadership, parlava di autorità. Vero Chiesa? Ce lo ricordiamo? Qui Paolo ancora ci spiega un ordine nell'autorità. E cioè, padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Siccome stava parlando dei genitori, ci saremmo aspettati che Paolo scrivesse papà e mamma, non irritate i vostri figli, però specifica il ruolo del padre, sottolinea il ruolo del padre, un ruolo che posso dirvi culturalmente distrutto. Già distrutto da una cultura meridionale matriarcale e che ora stiamo rigettando perché stiamo rigettando il patriarcato insieme anche la paternità. Non è questo, ripeto, l'ordine che Dio ha stabilito. Dio ha stabilito per i padri la leadership della propria famiglia. Ed è di leadership che stiamo parlando. Quanti di voi hanno letto almeno un libro di John Maxwell? Posso vedere le mani alzate? Il pastore ce li ha consigliati qualche giorno fa. Leo, tu ce li hai tutti, se volete qualche libro di John Maxwell, Leo ce li ha, tante copie. E tutto quello che ha a che fare con la leadership dobbiamo prenderla per questo verso. Quando obbedisci senza essere arrabbiato? Quando la tua leadership è una leadership sana. Quando la tua leadership è sana, produci sottomissione ed obbedienza sana. Cosa vuol dire avere una leadership sana? Fiducia, comunicazione, alleanza, far vedere lo scopo più grande. Quando Paolo dice non irritate i vostri figli, la rabbia è proprio l'istantanea emozione che viviamo nel non voler essere sottomessi alle autorità. La rabbia si sviluppa in noi, come noi lo chiamiamo a casa un liquido nero, ed è vero chimicamente, non ho il tempo per spiegarlo, ma proprio cerebralmente qualcosa di chimico si sviluppa nella nostra mente quando c'è la rabbia. E per essere riassorbita ci vuole tempo. La rabbia si mangia tutto, si mangia la gioia, si mangia la gratitudine, la rabbia è violenta, la rabbia è autolesionista, e Paolo dice ai padri di non provocare i propri figli in questo senso. Ovviamente io vedo Michael, mio cognato, che toglie in mano da Aaron, ovviamente, non so, una presa elettrica. È chiaro che Aaron 2 anni si arrabbia e lancia qualcosa. Ed è il sentimento che noi vediamo sin da piccoli nei bambini. Ma questa è protezione. Ma pian piano noi costruiamo con i nostri figli affinché la nostra leadership diventi sana. E vivere una leadership sana non è mi devi ubbidire perché sono tuo padre. A volte dobbiamo arrivare a questo, ma dobbiamo arrivarci, forse. Ma è provocare ad ira e non costruire una leadership sana. Paolo lo specifica così bene e specifica ancora, allevate, cioè, sii sano con tuo figlio. Una leadership sana non è, vuoi il telefonino? Certo. Vuoi ritirarti quando vuoi? Certo, certo. Figurati, non voglio irritarti, mi raccomando. No, Paolo dice anche, allevateli nella disciplina, che ci aiutano a crescere. Mio figlio Abram dice che la mia parola preferita è il no. E c'ha ragione, io dico più no del papà. se li merita. Mi tolgo qualche sassolino, va? Così. Però ci sono dei no che fanno crescere. E ci sono dei sì che fanno crescere. Ancora, ultima cosa. Allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Vi ricordate da cosa è partito Paolo? Siate dunque imitatori di Dio e camminate nell'amore. Se vogliamo crescere dei discepoli, se dobbiamo crescere dei ministri, se vogliamo crescere dei figli di Dio, i nostri figli hanno bisogno di vederci come degli esempi. I miei figli devono imparare da me a pregare, devono imparare da me a leggere la Bibbia, la mia passione per la Chiesa. I miei figli devono vedere dal proprio padre il senso del sacrificio per il servizio, il dire si va in chiesa, cascasse una pannocchia, noi stiamo in chiesa. La chiesa è la parte più bella della nostra famiglia. Noi non diciamo bugie, noi non diciamo parolacce, noi non mentiamo l'uno all'altro. Come lo insegniamo? Facendoci vedere. Siate imitatori di Dio. Questo è l'incipit che abbiamo. Amen? Questo insegnamento è durato non so più quanto. Mi perdonerete. È la prima volta che predico sulla genitorialità. Penso che non lo farò mai più. Vogliamo alzarci in piedi. Voglio però pregare per noi genitori. Che dura. Parlo spesso. Ehi, mi sento di dire un'altra cosa. Forse stai allevando i tuoi figli da solo o da sola. Forse sei da solo per causa di forza maggiore. Forse sei da solo perché sei l'unico che conosce Gesù all'interno della famiglia. Ricordati che Dio è il padre dei tuoi figli. È Lui che provvede. Dove tu arrivi, Lui fa il resto. Fai quello che devi fare tu. Fallo con gioia. Senza sentirti mutilato, senza sentirti mutilata. Fallo con gioia. Il resto lo farà Dio per te. E il resto che provvederà Dio con te. Genitori, vogliamo alzare le mani. Chi ha bisogno di una doppia unzione? Io anche tripla, centupla. Gesù, ti prego di guidarci nel crescere questa generazione che tu ci hai dato come veramente un'eredità tua. Ti preghiamo sapienza, discernimento, autorità, amore, pazienza, autocontrollo, santità in tutto quello che facciamo. Insegnaci ad essere l'esempio che tu sei per i nostri figli. Nel tuo nome, Gesù, dacci occasione di farli crescere nel tuo amore. Dacci occasione di poter spiegare i tuoi principi. Amen.